Prova Daniel. Prova Daniel. No, sei più basso. Sì. Aspetta che. Aspetta che lo basso io di watt. Sei più basso Daniel. Prova. Ah, segnale 4, radio 3, dai, ti ascolto bene di radio, non è male. Allora segnale 4, con quanti watt? Perché arrivare arrivi, non è che non arrivi, però boh, c'è qualcosa lì che non va, non lo so. La posizione è sicuro. La posizione è sicura, perché lì sei molto coperto. Perché se stavi, aspetta che abbassi qua, se stavi di più, cioè più mari più in alto, uscivi una bomba da lì, eh. Io mi ricordo che Giovanni arrivava molto bene a Sassari. Vedi, a quant'è il QRM? Io ce l'ho a, aspetta, io ce l'ho tra il 3 e il 4, però tu sei oltre il 4, dai, tra il 4 e il 5. Con la radio riesci a coprire il QRM. Comunque a me mi ascolti bene solo di radio, cioè non ho attaccato il 747. No, no, sono liscio adesso, Sono liscio, ma sei arrivata al massimo. Attaccato arrivavo e adesso quando arrivo? E se attacco cosa cazzo cambia? Non cambia niente. Vabbè, no, sono liscio, dai, se no devo abbassare i watt e agganciare, capito? Eia, boh Daniel, ripeto, ti ascolto, perché ti ascolto bene, non ti ascolto male. Tu, poi ti ho mandato anche la registrazione lì su WhatsApp, si è sentito. Lì bisogna migliorare un po' il segnale. Praticamente mi accendi 4 LED, e ce ne sono 2 del QRM. Ma chi, a me o a te? Non lo so. Non lo so. Bisogna vedere lì Daniel, ti vuoi organizzare bene bene, controllare quello che puoi fare, perché se l'antenna la sollevi le staffe non possono stare vicine vicine, devono essere almeno distanziate almeno 80, anche un metro. Quello che hai fatto vedere a me? Ho capito. Come si dice? È da vedere e valutare Daniel, cosa si può fare, però queste cose si può fare da mattino, perché di sera era un po' male. Vedi, adesso un disturbo 3-4 un po' ti ha coperto, e fai un po' di fuoco sotto, un po' di carbonella. Ma hai provato una di quelle radio modificate? Cosa? E vabbè, poi con un amplificatore magari riesci ad arrivare meglio. Sì. È la stanchezza. Fate un gotto. Dalle 3:30 di stamattina, adesso sono 12 ore. Ora vado a riposare, io vado a stare in riposo almeno 2 ore. E poi devo uscire stasera con mia sorella e Michela. Andiamo a bere qualcosa. Sì, scendiamo da Obus. E poi sabato faccio una piccola festicciola, ma ne vado a 140 grammi con loro. Un po' di naviso Daniel, non stanno così, povero. Vabbè, comunque l'hai sollevato un altro metro, mi hai detto. Sicuramente non la mettevi dove mettavi prima a Sassari, nulla, uscivi benissimo. Comunque già cerchiamo di risolverlo Daniel, bisogna vedere il tutto. Claudio già è bravo su queste cose. Vedere tutto e vedere dove si può mettere, però i tiranti, se devi mettere un palo massiccio, Daniel, non va bene quel palo, è sottile, devi mettere il palo come ho messo io, più grosso, perché se si bigiani, vabbè che l'antenna è leggera, e se no devi mettere i tiranti 420, capito, se no te la butta giù, invece mettendo i tiranti sei più tranquillo, non ho capito, però devi fare le prove, inutile che tu la piazzi e poi sei punti a capo, devi trovare un sistema, perché così cazzo, vabbè già che arrivi è buono, e non si magari manco messo bene come piazzata, ma mettendo la più alta hai più guadagno, oppure ti dovresti aiutare con un amplificatore, perché se adesso stai uscendo con 20 watt e uso un amplificatore e ce ne butti 100, 150 sotto, ma anche 200, e adesso come arrivi a Sassari. Dai, comunque già lo risolviamo, Daniele, capito? Dai, adesso io cerco di riposarmi un'oretta, se no stasera a cazzo sono una merda. Ia, dai, così già lo sistemiamo il tutto, dai, tranquillo. Casomai ci sentiamo più tardi, dai. Ciao, Daniele.